Il motore e la trazione del gruppo Fiat Chrysler è tutto negli Stati Uniti, a giudicare dai conti. Andrea Malan, buonasera. Buonasera a tutti. Confermi? Sì, assolutamente. Diamo due numeri. Il fatturato di Chrysler pesa per il 60% sul totale del gruppo, sono oltre 12 miliardi di euro su 20 in un trimestre, e l'utile della gestione ordinaria pesa praticamente per il 101%, cioè sono 872 milioni di euro che ha guadagnato Chrysler contro 6 milioni di rosso per il resto del gruppo. Quindi indubbiamente è così, questo è dovuto da un lato al boom di Chrysler che ha aumentato le vendite del 40% negli Stati Uniti, che è il suo principale mercato, e dall'altro alla grave crisi del mercato europeo, meno 20% in Francia, meno 20% in Italia, una Fiat che perde quote di mercato e che quindi a livello di attività europee sempre in questi tre mesi ha perso 170 milioni a livello di risultato operativo. Naturalmente questo lascia fuori i marchi Ferrari e Maserati, che sono tenuti anche contabilmente a parte. Sì, insomma, la parte buona, la good company, mi spiace dirlo, ma è la Chrysler in questo momento, anche perché l'indebitamento netto è a 5 miliardi e 8 complessivamente, con Chrysler oltre un milione di consiglieri nel mondo. Il consiglio di amministrazione si è tenuto a Detroit. Si è tenuto a Detroit, così come quello di Fiat Industrial, così come quello di CNH, eccetera. Diciamo che, volendo fare una battuta, si potrebbe dire che almeno in questo periodo il gruppo Fiat Chrysler è diventato Chrysler Fiat. Avevamo avuto un leggerissimo sospetto in questi ultimi mesi. Anche gli investimenti, se guardiamo sempre i numeri di tre mesi, di 1,6 miliardi di investimenti, 1 miliardo è andato a Chrysler, 600 milioni al resto del gruppo tutto compreso. Ci sono dei segnali, diciamo, che si potrebbero definire non numerici. Un esempio: al Salone di Pechino, che è in corso in questi giorni, a cui sono stato nei giorni scorsi, lo stand della Fiat che lancia la nuova Viaggio è grande la metà di quello di Chrysler e Jeep, che lanciano in sostanza due piccoli restyling per il mercato cinese di veicoli già esistenti. Senti, com'è questa?